peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi alcune novità che provengono dalla Grande Mela. New York continua ad essere una capitale che raccoglie intorno a sé i talenti, sia quelli che sono ormai consolidati nel tempo e che comunque riescono a proporre progetti nuovi o innovazioni o cambiamenti di progetti già consolidati, e sì, anche di nuovi talenti che vedono anche nella possibilità di confrontarsi con i più grandi l'occasione per crescere artisticamente. Il primo musicista che ascoltiamo è un giovane, non ha a meno di 30 anni, poco tempo che è sulla scena, e però si è già proposto come uno di grande interesse, un contrabbassista, si chiama Max Johnson, è un musicista che ha accumulato ormai una serie di esperienze sia in concerto con i grandi, da Tredgill, Braxton, Vinnie Golia e molti altri, sia anche da un punto di vista discografico comincia a farsi notare per la sua attività. Sono, tra l'altro, lui guida, è leader di una serie di progetti diversi, 6 o 7 progetti diversi, che però non tutti hanno trovato modo di essere poi testimoniati in una registrazione discografica, in una produzione discografica. Il lavoro che si può dire più compiuto di questo musicista, che si propone anche come compositore intelligente, è un quartetto come si suol dire pianoless, quindi una formazione con trombone e sassofono contralto, clarinetto. E la formazione oltretutto ha alcuni talenti di importanti, come Steve Swell al trombone oppure alla batteria Tishan Sorey, lo ricordo, sia entrambi sono ormai dei punti fermi nell'ambito dell'avanguardia, non solo newyorkese ma anche di Chicago. Poi si aggiunge un altro giovane, un sassofonista, Mark Whitecage, che è indubbiamente un personaggio interessante, che si pone con autorevolezza in questo dialogo con sicuramente il più accreditato e il più conosciuto Steve Swell. Ascoltiamo il brano d'apertura, che è un po' una sorta di carta di presentazione di questo musicista e del quartetto. Questo era il quartetto di Max Johnson, giovane contrabbassista, un giovane talento, col trombone, abbiamo ascoltato il trombone di Steve Swell, il sax contralto spigoloso, classico diciamo dell'esperienza free di Mark Whitecage, oltre al drumming straordinario di Tishan Sorey. L'ambiente, forse due parole vanno per ricordare anche l'etichetta discografica Not Two Records, che è un'etichetta europea, quindi polacca, che recentemente si è segnalata come una delle punte di testimonianza più interessanti un po' di tutte le avanguardie che transitano in Europa. E soprattutto penso alla lunga collaborazione, insomma, le diverse produzioni per Ken Vandermark con il Five, col quintetto, ma anche su orchestra. Anche i lavori orchestrali, sono tutti i tre lavori orchestrali fatti da Vandermark, sono tutti testimoniati in questa etichetta. Quindi è sicuramente, ecco, ancora una volta l'Europa rimane un punto di riferimento proprio per testimoniare quello che accade oltreoceano. Quindi Max Johnson è newyorkese, però appunto l'area che si respira in questo quartetto è più diciamo riferibile alle esperienze chicagoane. Ora passiamo a quello probabilmente che è il cuore di oggi. È un gruppo di musicisti, una sorta di gruppo quasi condominiale o comunque rionale, musicisti che collaborano tra loro da molti anni e che si conoscono fin da ragazzetti. Si tratta di Chris Pead e Jim Black soprattutto, che ancora una volta, ormai sono più di una ventina d'anni, che sono come dire, personaggi di punta in quello che è quello che accade di nuovo nell'ambito del jazz, creando una sorta di linguaggio anche proprio coerente perlomeno anche tra di loro, e presentano però anche progetti diversi con leadership appunto che si differenziano. Ascoltiamo per primo l'ultimo lavoro uscito per l'etichetta Winter and Winter, che è ormai da tempo l'etichetta che ospita Jim Black, e l'ultimo lavoro in quartetto, un quartetto consolidato e autorevole, Alas Knock Axis chiamato, ha già fatto diversi dischi con questa denominazione, ed è formato da Chris Pead al sax tenore e al clarinetto, Ilmar Jenson, uno straordinario chitarrista islandese, Skúli Sverrisson al contrabbasso e Jim Black alla batteria. Quindi una formazione che poi si trova a collaborare anche con altri progetti, con altre denominazioni. Questo ultimo lavoro, a mio avviso, è decisamente ben riuscito, ha una lirica intensa, la vena melodica di Jim Black è notevole. Ancora una volta questo lavoro lo va a testimoniare adeguatamente. Sono 8 i brani che compongono il disco, sono tutte composizioni di Jim Black. Ascoltiamo 3 brani, i primi 2 e poi il primo intitolato Antiero, poi Super Cup e San San per ultimo. Thank you. Questo era il gruppo, il quartetto di Jim Black, il quartetto Alax Noaxis, che ha prodotto recentemente un nuovo lavoro, sempre per l'etichetta Winter & Winter. È un lavoro coerente, si respira un'atmosfera molto chiusa, molto ovattata, e questo sicuramente per il compito di creare queste situazioni e soprattutto quello di Chris Speed con il suo suono al tenore, un suono calante, opaco, che risente come dire, di una sorta di assenza di vibrato che gli dà una certa area suggestiva, e poi anche queste risonanze di una chitarra utilizzata da Ilmar Jenson con una particolare attenzione all'elettronica. Naturalmente il drumming di Jim Black è straordinario per la sua capacità narrativa, ha un senso lirico molto profondo che lo fa, come dire, ritrovare una situazione di struttura in qualunque situazione, in qualunque condizione, in qualunque contesto anche. Questi musicisti appunto collaborano da tempo e anche con formazioni diverse. Una formazione particolare è quella chiamata Endangered Blood, che fu così creata per un'occasione particolare. L'occasione particolare fu quella di una malattia riscontrata Andrew D'Angelo, sassofonista, amico e quindi, come dire, compagno di strada di questi musicisti, che alcuni anni fa gli fu riscontrato una malattia che comportava un'operazione costosa, che questa operazione naturalmente Andrew D'Angelo, i musicisti non sono famosi per essere ricchi, questi perlomeno i musicisti di jazz, quindi si attivarono gli amici, i colleghi, il mondo artistico newyorkese e non solo si è attivato per vedere di reperire i fondi per Andrew D'Angelo, e fu formato appunto un gruppo apposito per fare una serie di tournée ed era questa Endangered Blood, cioè un sangue che non è pericoloso. Il successo è stato notevole per il primo lavoro discografico uscito per l'etichetta di Chris Speed, la Skirl, un'etichetta che raccoglie altri musicisti sempre, come dire, molto apprezzati nell'ambito, dagli altri musicisti soprattutto, ma non solo. E questo ha avuto un risultato decisamente notevole, il primo lavoro, e tanto da immaginare di continuare l'esperienza, di proporne un ulteriore. È uscito recentemente, peraltro è stato anche accompagnato da una tournée in Europa, una piccola tournée in Europa, si è potuto ascoltare il gruppo e anche la presentazione di questi brani anche a Ferrara, quindi non certo lontano da noi, e ha confermato le qualità di questo gruppo. Una formazione anche questa di alto livello, oltre appunto a Jim Black e Chris Speed che abbiamo ascoltato anche nell'ultimo lavoro, si aggiungono al contrabbasso Trevor Dunn, altro compagno di strada da tempo, e un nuovo sassofonista, non giovane perché tutto sommato ormai è verso i 40 anche lui, però non, diciamo che un nuovo arrivato nell'ambito newyorkese, si sta segnalando come uno dei talenti più interessanti al sax contralto e clarinetto basso. Proviene dal Messico, ma ormai ha una perfetta integrazione nell'ambito dell'avanguardia newyorkese. Anche in questo caso il gruppo dà prova di essere estremamente compatto, con brani molto calibrati, tutti composti da Chris Speed, che ne è anche l'ideatore, il leader, diciamo, perlomeno da un punto di vista organizzativo, formale, Sono 8 i brani che compongono questo lavoro, direi che disegnano una capacità espressiva dei quattro musicisti veramente all'altezza della loro fama, ormai considerevole. Il disco è intitolato Work Your Magic. Ascoltiamo due brani adesso. Il primo è un blues, molto semplicemente un blues, che però viene rielaborato dal loro linguaggio, dalla loro atmosfera, blues in minor, e poi un successivo argento. Thank you. questo il gruppo Endangered Blood, guidato da Chris Speed, che caratterizza anche molto il suono del lavoro, della formazione. Ognuno ha comunque un ruolo definito e lo può esprimere anche pienamente. Sono ruoli compatibili tra di loro, ben intrecciati. Probabilmente un gruppo che ha ormai consolidato un'esperienza piuttosto lunga di collaborazione, di performance insieme, quindi sono il tempo dà anche la capacità di elaborare un interplay ben equilibrato. Ascoltiamo un altro paio di brani, sono tutti abbastanza coerenti tra di loro, sono sempre questa sorta di confine tra una parte lirica, una costruzione diciamo da canzone tradizionale e anche alcuni elementi più legati all'espressione free, all'improvvisazione totale. Ascoltiamo due brani, gli ultimi due per oggi, Manzanita e International Four. Thank you. Abbiamo ascoltato il gruppo di Endangered Blood, il quartetto guidato da Chris Peed con Jim Black, Chris Peed al sax tenore, sempre riconoscibile, e al clarinetto, Jim Black alla batteria, Oscar Noriega al sax contralto, clarinetto basso e Trevor Dunn al contrabbasso. Una formazione ormai consolidata che appunto ha proposto questo suo secondo lavoro per l'etichetta Skirl, l'etichetta di Chris Peed, che ospita musicisti più apprezzati, soprattutto da lui, ed è giunta già a una ventina di titoli, tutti interessanti peraltro. Era anche l'ultimo ascolto per oggi. Il disco, lo ricordo, si intitola Work Your Magic, è uscito recentemente. Tutti i dischi che abbiamo ascoltato li potete trovare, tutte le indicazioni, nel nostro sito radiocittafujiko.it. Potete riascoltare anche la trasmissione in podcast e radiocittafujiko.it, sezione musica, Sal Peanuts. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.